La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Dacia Maraini, fiorentina, scrittrice, autrice di alcuni libri di successo come L'età del malessere e Lettera marina, ha girato 3 documentari sulla donna africana e ha scritto molto per il teatro. Signora, in un'intervista lei ha detto che la creatività è legata all'eros, all'erotismo. Perché? Roland Barthes diceva che scrivere è come giocare col corpo della madre. Bene, scrivere, io parlo della scrittura perché è il mio campo creativo, e in generale creare è come giocare con questo grande corpo che è il corpo della scrittura. Ecco, le donne hanno poco giocato col corpo della madre, sono state nutrite, hanno avuto questo corpo a disposizione, ma ne hanno giocato poco. Ecco, in questo senso l'erotismo è all'origine della creatività. Quanto ha inciso il sesso nella sua vita di donna e di scrittrice? Molto. Per me il sesso è un modo di conoscere il mondo, è un mio modo di mettermi in rapporto con gli altri, col mondo, di conoscere le cose, la realtà. Lei vive sola, perché? Perché ci sto bene. Comunque io ho vissuto 4 anni con un marito, poi 18 anni con un uomo e a un certo punto ho deciso che mi piaceva di più vivere sola. Non che mi sia pentita di aver vissuto, di aver fatto questa esperienza, anzi sono stata molto bene e sono in ottimi rapporti con queste persone, però penso che, ecco, se si accetta il rapporto di convivenza come un matrimonio, cioè come un'istituzione in cui c'è questa specie di patto di convenienza per cui ognuno poi fa la sua vita, un rapporto di amicizia, allora va bene. Ma se si pretende che un rapporto di vivere insieme è basato anche su una sessualità felice, allora certo non può durare più di tanto. Quindi oggi tanto spesso appunto le coppie si separano perché si pretende dalla convivenza anche una sessualità felice. Questa si consuma facilmente la convivenza, anzi direi che si consuma di più nella convivenza. Così Enzo Biagi intervistava la scrittrice Dacia Maraini. Così la televisione si muoveva anni fa, lenta e capace di ascoltare, grazie al talento di un giornalista come Biagi, che ascoltiamo con nostalgia mentre interroga una giovane Maraini parlare e introdurre temi così innovativi da apparire ancora oggi freschi. Quella di oggi è dunque la storia di una scrittrice, di una donna che ha attraversato gli anni e che con i suoi libri ha raccontato soprattutto le donne, la natura e la conoscenza. La conoscenza è tutto, dirà Dacia Maraini. Prima necessità è la conoscenza. Dalla conoscenza poi vengono le prese di posizione. Dacia Maraini è sempre stata consapevole, sin da bambina, che il sapere, la conoscenza, sono l'unica vera porta d'ingresso per la vita e lo ribadisce ogni volta che può. Viaggiare è forse il momento più intenso della conoscenza e Dacia Maraini, cresciuta in una famiglia di viaggiatori, questo lo sa bene. Per me un viaggio è sempre un processo di conoscenza, quindi si viaggia per conoscere. E a volte il processo di conoscenza può essere anche doloroso. Certamente è andare in profondità, non è il viaggio turistico, diciamo, è la negazione della conoscenza. Dacia Maraini nasce a Fiesole il 13 novembre del 1936. La madre è una pittrice e appartiene a un'antica famiglia siciliana. Il padre, Fosco Maraini, per metà inglese e per metà fiorentino, è un antropologo conosciuto che ha scritto diversi libri sul Tibet e sul Giappone. Un padre sognatore ma assente, questo dirà la giovane Maraini. Era un antropologo, amava molto le arti, che viveva attento a quello che succedeva intorno a lui. quello che io gli rimproveravo era di essere assente, e siccome faceva l'antropologo, nei momenti importanti della mia vita, come la scuola, le malattie, non so, le piccole cose della vita quotidiana, lui non c'era. Durante il fascismo i Maraini andranno in Giappone. Dal 43 al 46 la famiglia, insieme con altri italiani, sarà però internata in un campo di concentramento per essersi rifiutata di riconoscere ufficialmente il governo militare giapponese che nel 43 si era alleato con l'Italia e la Germania. Quegli anni furono raccolti e raccontati nel libro di poesie Mangiami pure, uscito nel 78, un libro che ancora oggi è attuale. Che con coraggio volti pagina per iniziare ancora a vivere. È stato molto bello aver parlato insieme. Dacia Maraini è oggi una tra le più conosciute scrittrici italiane e probabilmente la più tradotta al mondo. La fama è immensa perché è una donna che non smette di combattere, soprattutto per noi donne. Il 14 febbraio 2013, il giorno di San Valentino, in tutto il mondo le donne sono scese per strada e hanno ballato contro la violenza e gli stupri. In alcune piazze italiane le donne hanno letto la poesia Donne mie di Dacia Maraini. Ne abbiamo raccolto un pezzetto, l'audio è sporco, ma le parole sono pure e rivoluzionarie. Donne mie di Dacia Maraini. Donne mie, che siete pigre, angosciate, impaurite, sappiate che se volete diventare persone e non oggetti, dovete fare subito una guerra dolorosa e gioiosa, non contro gli uomini, ma contro voi stesse, che vi cavate gli occhi con le dita per non vedere le ingiustizie che vi fanno. Una guerra grandiosa contro chi vi considera delle nemiche, delle rivali, degli oggetti altrui. Donne mie, dalle dita che puzzano di aglio, donne mie, dalle vene varicose, gli occhi feroci, le mani insolenti, la bocca timida, voi lavorate ogni giorno senza stipendio per i figli, il marito, i cugini, i nipoti, i fratelli, i nonni, i padroni, tutti che vi vogliono belle pure come oggetti sociali. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. And spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Italiana è la mia lingua, ci lavoro tanto, è un corpo a corpo perché la lingua cambia continuamente, quindi lo scrittore è messo a confronto con questa lingua che deve da una parte assecondare nei suoi cambiamenti, ma dall'altra non farsene dominare, quindi è molto difficile il rapporto con la lingua. Questa è la prima volta di Dacia Maraini, una ragazzina arrivata in Sicilia dopo essere passata da un campo di concentramento in Giappone. La Sicilia, Bagheria, gli odori, i nonni materni, la vita fatta di corse libere scalze e le letture. Una giovinezza segnata anche dalla povertà, dove la lettura resta però il centro della vita della giovane Dacia, destinata a vivere una vita libera, circondata da amici come Maria Callas e Pasolini. Beh, Pasolini era un amico veramente molto... una persona intensa. Lui era silenzioso, parlava poco. Non era una persona di chiacchiera, insomma, non parlava pochissimo, però stare vicino a lui, il silenzio era un silenzio accrescitivo, non diminutivo. Ecco. E si viaggiava benissimo con lui perché era un uomo tanto di un'energia straordinaria, alle volte sorprendente. Io ho lavorato con lui, ho fatto una sceneggiatura delle Mille e Una Notte e per esempio noi lavoravamo 12 ore al giorno, no? Io mi stupivo, ma lui non era mai stanco. Poi alla fine di questo lavoro distruttivo lui pigliava e se ne andava in giro per la notte a vagabondare per la città. Era veramente una persona piena di gioia di vivere, ecco. Nel corso degli ultimi anni, Dacia Maraini ha continuato a scrivere di donne, parlando di violenza e di forza, difendendo quelli che dovrebbero essere diritti garantiti. E poi c'è un'altra battaglia che Dacia Maraini sta combattendo, è quella per la difesa della grande madre, la terra. La terra è la nostra, insomma, simbolicamente la nostra madre, da cui noi deriviamo, che, da cui nasciamo, da cui... quando siamo morti torniamo, quindi simbolicamente è una parte molto, un punto di riferimento molto importante per noi. Però questa madre viene maltrattata, viene veramente trattata, non so, trascurata, violentata, picchiata, battuta, c'è di tutto contro questa povera madre. In qualche modo è lo specchio della società, cioè è quello che poi si vive anche nel quotidiano. Sì, purtroppo sì, il fatto che noi proprio non pensiamo alla terra, la trattiamo come se fosse uno straccio, non abbiamo il minimo rispetto. Lei vede per esempio, ecco, tutta questa questione dell'acqua, no? Il fatto che si sta cementificando. Il nostro poi è un paese piccolo, non è che ha quelle risorse immense, il nostro è un paese piccolo. Questo paese piccolo... lei vede che la terra si sta cementificando tutto, a tal punto che non c'è più respiro per questa terra, non la facciamo respirare, proprio manca di respiro. Credo che se fossi in un governo, insomma parte di un governo, mi affiderei agli esperti, ai tecnici, però veramente ascoltando i tecnici, non ascoltando i proprietari e i grossi industriali o i grossi proprietari di sementi, eccetera, le grosse multinazionali, non so, per esempio, che si occupano dell'agricoltura. No, lei sa per esempio questa storia dei semi che vengono venduti ai contadini, dei semi che non si possono riprodurre, quella è una cosa folle, per cui devono per forza poi comprare gli stessi semi, capisce? Quindi questa secondo lei è una cosa che andrebbe guardata con attenzione? Sì. Certo, è una cosa gravissima. E appunto, molta gente non lo sa, ecco perché l'importanza dell'informazione. L'informazione, vuol dire giornalisti, scrittori, devono occuparsi di queste cose per farle sapere, perché il pubblico non le sa. Lei è proprio in partenza in questo momento mentre facciamo l'intervista. Sì, sto andando ad Arezzo. E lei è comunque, nasce proprio anche come eredità familiare, come viaggiatrice, perché si è spostata tanto, ha visto tanti posti. Molto, sì. Oggi, dall'alto della sua esperienza, viaggiando per il mondo, c'è qualcosa che la lascia ancora stupita e qualcosa che invece la amareggia in una maniera profonda? No, mi amareggia appunto purtroppo... la inconsapevolezza, la passività della gente di fronte ai gravi problemi, di fronte alle prepotenze, ecco, perché molte di queste guai derivano da una parte dalle prepotenze dei grandi poteri, insomma dei grandi industriali delle armi, dei grandi industriali della guerra, che vogliono fare la guerra, dei grandi industriali che posseggono, non so, appunto, per esempio le sementi in mezzo mondo. Però dall'altra parte c'è passività, perché sta poi ai cittadini reagire a queste cose. Se non si reagisce, non cambia nulla. Anche se c'è un grosso movimento, anche molto giovane, di ragazzi che stanno tornando proprio a lavorare la terra. Sì, questa è una bella cosa, no, anzi una bellissima cosa, perché la terra se la si lavora, la si conosce, la si ama. Se invece non la si conosce, è chiaro che uno non capisce come funziona il meccanismo, come la terra per esempio ha bisogno di respirare, di riposare. Anche certe culture che si fanno adesso così intensive, sono per la terra, sono sfibranti, la terra diventa nevrotica, diventa, sta male, oppure questo uso terribile dei pesticidi, no? L'uso eccessivo dei pesticidi porta a una malattia della terra, la terra appunto non ce la fa, è estenuata. Beh, tutte queste cose chi coltiva la terra lo sa e se ne rende conto. Chi invece sta in città e crede che la terra sia un posto così idilliaco dove le cose crescono da sole, senza cura, senza niente, è chiaro che non. Quindi la prima necessità è la conoscenza. Dalla conoscenza poi vengono le prese di posizione. La fatica di più sulle braccia scure. La prima volta termina qua. Io vi ringrazio per averci seguito, vi rinnovo l'appuntamento come sempre a domenica prossima dopo il giornale radio delle 13. Se volete potete riascoltarci in podcast, abbiamo anche una pagina Facebook e potete scriverci all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Buona domenica a tutti da Cristina Carpinelli.